Bahia, chi va via sente sempre la malinconia, come me, come te, questa sera. A Bahia la magia va per mano con la fantasia e farà che tu sia qui domani. Arrivederci a stamattina, in questa notte sudamericana. Arrivederci a stamattina, questa è la formula per chi si ama. Arrivederci a Bahia, guardi su e nel cielo c'è una stella in più che da blu viene giù se la chiami. A Bahia è così, chiudi gli occhi e dimmi solo sì e vedrai che sarò